Bottega nasce come società diversi anni fa. La realtà è che non ha mai avuto una finalità, uno scopo di lucro, perché l'obiettivo era quello di provare a fornire formazione finanziata o con fondi pubblici o con fondi privati il più possibile fino all'inizio. Questo viene, faccio un breve passo indietro, da dove nasce questo modello. Nasce, ecco, curiosamente, è vero, il DAMS è molto presente. Io stesso sono damsiano, ho studiato appunto con Paolo Fabbri, con Umberto Eco, con Omar Calabrese, e da lì vengono anche le mie competenze. Il modello di questa scuola viene però da una scuola di diversi anni fa che si chiamava Università del Progetto e stava a Reggio Emilia nei primi anni 90, che io ho frequentato da allievo. Cosa che mi ha segnato di quella scuola, che durava 2 anni, era l'alto profilo degli insegnamenti, nei quali tra l'altro c'erano appunto molte delle personalità che ancora sono coinvolte in bottega, tra le quali anche Ermanno insegnava Gianni Celati, insegnava Luigi Ghirri, insegnava fotografia all'interno dell'Università del Progetto. Il corso era totalmente gratuito perché finanziato anche lì dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione. Ecco, diciamo che da quel modello che io ho percorso come allievo e sono stato segnato per la formazione, diciamo positivamente, in qualche modo. Negli anni a venire, sempre grazie alle frequentazioni con Paolo Fabbri, col quale mi sono laureato, Umberto Eco, Calabrese, con il quale abbiamo fatto il dottorato, insomma, e questo modo di pensare la narrazione e anche il modo di pensare gli strumenti della semiotica, non solo come qualcosa, solo tra virgolette, che serve per analizzare, ma serve per costruire, cioè quello che noi facciamo dentro Bottega Finzioni è frutto di quel modello di scuola, è vero, di Reggio Emilia impostato in quel modo, gratuito, ma non gratuito perché siamo buoni o erano buoni, perché il gratuito permette di selezionare il talento, ovvero se si toglie, si sgombra il campo dalla selezione basata sulla possibilità economica, anche perché il talento non è distribuito per reddito, ma è distribuito, immagino, almeno penso io, totalmente in maniera casuale. Se sgombriamo il campo dall'economia, diciamo, quando arrivano le persone che vogliono accedere a bottega, e sono tante, di solito come erano all'università il progetto, e parliamo di centinaia di persone, non di decine, centinaia che arrivano per entrare a decine, tu sei libero di prendere quelli che ti sembrano più bravi. Quindi c'è una selezione, diciamo, esclusivamente basata sul talento. Questo è un pilastro, direi, fondamentale di questo genere di formazione. Ecco, poi, detto questo, certo, gli strumenti della semiotica che molti di noi usano, anche se non lo sanno, che questo è interessante, la semiotica inconsapevole, avendo a che fare con Paolo, con Eco, con Calabrese, quello che vedo qui molti dicono, sono stato, anzi, continuo a incontrare persone sempre di più. Ne parlavo con Simonetta Franci, la moglie di Paolo, che segue con affetto questa fondazione, della quale fa parte come comitato etico. Io continuo a incontrare persone che mi dicono: sono stato allievo di Paolo Fabbri, ne incontro a decine, ne incontro tantissime, e ho un ricordo bellissimo perché, in effetti, avere a che fare con Paolo apriva degli scenari e ti faceva osservare le cose in una maniera che non potevi dimenticare. Questo modo era: se io ti insegno degli strumenti che ti servono per smontare degli oggetti, facciamo conto come se fosse un meccanico che deve smontare un motore, guarda che con quegli stessi oggetti tu ci puoi rimontare quel motore, anzi, non solo, puoi montare anche in una maniera diversa se vuoi. Ecco, questo è quello che facciamo qua dentro. Li smontiamo per vedere come sono fatti e poi li rimontiamo in un altro modo. Ovviamente lo facciamo con la narrazione, che è quella cosa che ci siamo detti finora, che permette alle persone di collaborare. È vero, uno può dire: ah, beh, anche il denaro permette, ma guardate che anche il denaro è una narrazione, oppure le passioni, idem. Quindi, diciamo, la narrazione è l'unica cosa che fa collaborare decine, centinaia e migliaia di persone, che sia lo Stato, che sia come una marca automobilistica, che sia un partito. Il racconto di questa cosa è quello che ci fa appassionare le gare, eccetera. Quindi, in qualche modo, insegnare a raccontare vuol dire insegnare come appassionare le persone. Certo, non si può farlo se non si è appassionati. Quando si guardano gli interventi di Paolo, adesso le registrazioni, la cosa che colpisce di più, a me ha sempre colpito, è la contagiosità, il suo modo di essere contento, di essere lì a raccontare quello che stava raccontando. E questo arriva, era contagioso in maniera sempre intelligente, mai banale. E il motivo per il quale abbiamo dedicato la fondazione a Paolo è questa. Poi i progetti che abbiamo sono tanti. Il passaggio, direi, altro fondamentale che ci tengo a sottolineare è che Bottega, dopo essere stata per tanti anni una scuola di formazione professionale alla scrittura, ovvero la scrittura di storie in maniera efficace era lo scopo. A un certo punto, parlandone proprio con Paolo, e non solo, però diciamo ci riferiamo a lui in questo momento, perché in effetti è quello che ha sostenuto anche a livello teorico maggiormente la cosa, ci siamo rivolti verso il modello delle funzioni narrative di stampo anglosassone, ovvero quelle istituzioni come la 826 di San Francisco, il Ministero della Storia di Londra o quella di Dublino, dove la narrazione viene usata come strumento per raggiungere qualcos'altro. Faccio un esempio molto banale: se noi facciamo un corso per bambini, soprattutto diciamo, laddove in aree che vengono dette ad esempio aree di fragilità, un corso giallo per imparare a scrivere il giallo per bambini, ecco, non lo facciamo, certo lo facciamo perché così imparano a scrivere dei bei racconti gialli, ma il senso non è quello. Il senso può essere: permettiamo loro di parlare dell'aggressività senza saperlo, perché dentro il giallo c'è sempre il morto ammazzato, ci sono le prove, le false piste, tutto quanto. Quindi in questo caso lo strumento della narrazione serve per far emergere tra bambini e con le maestre il tema dell'aggressività. Se questo lo si fa in un contesto di difficoltà, forse può aiutare. Ecco, diciamo che lo strumento della fondazione narrativa, quindi, che applica gli studi narratologici che sono stati fatti in ambito anche accademico, montare film, serie TV, libri, quello che volete, può essere usato come strumento invece per costruire qualcosa in ambito sociale con vantaggi per entrambe le parti.